Carissimi amici di Runtime Radio, bentornati, siamo di nuovo qui con voi. Aspettate che c'è qualcosa da fare. Discoteca! Aspettate, ecco, adesso posso, scusate, ma mi si è innescato un problema tecnico dal punto di vista strettamente logistico, ma l'abbiamo risolto, perché anche questa volta noi siamo stati in grado di risolvere il problema. Bentornati qui su Runtime Radio, da me Simone Pinzi e Michele Paola. Bentornati a tutti, strillare, amici, non urlare, sai, ero presa carica da quella musica, sì. Bellissima. Abbiamo ascoltato uno che gli piacevano i succhi di frutta, dice, c'aveva qualcosa con i succhi. Sì, succhiava. E allora niente, praticamente abbiamo ascoltato questa bellissima musica che ci ha intrattenuto e vi ha soprattutto a voi intrattenuto fino a che insomma non arrivava l'inizio di Everything's, che è insomma ovviamente questa nostra trasmissione dove noi parliamo insomma del mondo che ci circonda. Everything's. Esatto, che significa? Che significa? Che noi pensiamo a tutto e a tutti e vi vogliamo tanto bene. Intanto iniziamo salutando tutti gli ascoltatori che sono presenti nella chat, ovvero Enrico, Runtime Radio, Enrico e Lobby che... E anche Davide Gatti, cioè. E anche Davide Gatti che è arrivato. È appena subentrato. Eccolo. Davide, benvenuto, speriamo che tu stia meglio, perché Davide è reduce da una caduta colossale e non gli chiedete niente, perché sennò mi manda foto raccapriccianti della sua ferita. Esatto. Quindi è contento di sapere questa necessità di dover condividere lo splatter con il resto del che mondo. Che sta guarendo. Beh, l'importante è che sta guarendo, perché insomma noi non auguriamo mai il male a nessuno, ma soprattutto auguriamo sempre il bene a tutti quanti. Sì, il bene. C'è del buono in noi, no? C'è tutta una questione di buonità, buonismo. Vabbè. Siamo buonisti. Bene. E allora, ce ne vantiamo. Michela voleva fare questa trasmissione perché aveva detto: "Boh, torneremo più puntuali". È tipo un mese. Ho fatto la prima puntata, però vabbè, una volta al mese si può sempre fare. Nel frattempo, che cosa è successo in questo mese, Michela? Così almeno ci raccontiamo un po' i cazzi nostri. Che cosa è successo in questo mese? Allora, dal punto di vista della nostra vita, non è successo niente. Ah, ecco. O quasi, nel senso che è finito il Trono di Spade, quindi siamo molto molto molto confusi e vaghiamo in giro senza sapere che cosa sarà del nostro futuro. E ci sono state le elezioni, ma quella è la fine purtroppo di tutto il racconto. Vabbè, poi dopo ci arriviamo alle elezioni. Ci arriviamo. Dice, ci sarà presto una novità. Tu dici proprio Casa Raimondo? A esatto. Casa Raimondo presto arriverà Gomera? Abbiamo deciso di chiamarla Gomera? Gamora. Insomma, il nemico di Godzilla. Che praticamente... Ah, sono passati 2 mesi? Grazie Lobby, meno male che ci sei te e che ce lo ricordi. Allora, 2 mesi sono tanti, se volete mi metto a raccontare tutto. Soprattutto i disastri. No, ma non credo che sono passati 2 mesi, addirittura. È così dice Lobby, quindi noi gli crediamo. Ciò che dice Lobby corrisponde alla verità. Insomma, ci sentite bene più che altro, perché ho avuto dei problemi tecnici nel rimboccare in diretta così senza far nessun preavviso, senza nessun test. Comunque dicevo che arriverà. Ci sentite? Se non ci sentite, parliamo da soli. Esatto. Ma ci sentite che vedo che ci rispondete. Vabbè, quindi arriverà questa nuova gattina, perché ormai noi siamo diventati paladini degli animali. Sì. Poi è un po' radio scenuare questa sera. Se ci avevamo il telefono, facevamo telefonare. Ciao Ninna. Che saluti Gigi, la prostata, come va la prostata? Perché voi sapete, io non vi ho mai raccontato, ma io un mio amico Alessandro Fiori, faccio nome e cognome, la faccio della privacy. Un grandioso batterista che ha fatto parte di una bella band per un bel periodo. Ha fatto insomma parte di tante band, lui veniva dall'heavy metal, insomma poi dopo è andato sul... Però insomma è uno che... E allora ogni tanto ci vedevamo sotto casa mia, lui veniva, si mettevamo in macchina, bevevamo una birra in macchina e ascoltavamo sta radio che si chiama Radio Chenoir, che non so, per chi non è di Roma chiaramente non potete sapere che cos'è. Sta Radio Chenoir era una radio fatta da un'associazione prevalentemente dei vecchi, che praticamente sti vecchi, appena sta soli praticamente, avevano messo su sta specie di radio. E quindi c'era sempre qualcuno, tipo uno speaker che stava in radio e a determinati orari faceva sta trasmissione, metteva le cassettine, no, Albano, insomma le musiche che piacevano ai vecchi. E sì, perché telefonavano, cioè nel senso una canzone e l'altra telefonavano e più o meno si conoscevano tutti. Io, Nina, come stai? Cataratta. Tutto così era questa radio. Che poi sono sempre andato a Chenoir. Perché radio Chenoir? Che significa? Da noi. Tra di noi. Ah, Chenoir. Ah, ecco. Tra di noi. Ah, vedi. Allora c'è anche un senso tutto, sì. Tutto sommato. E ogni tanto io chiamavo. Ah certo, e quello che chiaramente non conoscendomi c'aveva il timore che gli cacciavo la bestemmia, chiaramente, perché diceva vabbè questo, che non è che c'erano filtri telefonici, no, tu telefonavi e andavi in onda chiaramente. E vabbè, poi alla fine mi ha detto no, guarda, devi far parte dell'associazione, se no non ti posso mandare in diretta. E allora por... ecco. Sono cose bellissime che volevo raccontare, vabbè dai. È finito. Fateci sapere se anche voi c'era una radio ridicola che ascoltavate. Allora, no, io a proposito, vabbè, voi vi ho sempre raccontato molto spesso che la mia passione per la radio rimane comunque dall'origine per Radio Rock e per gli storici DJ come Prince Fatter, Armandino. DJ Oreste che tuttora cerco di seguire in qualche modo con alcuni. Poi qualcuno ancora è morto qualche... anche nel frattempo. Sì, il grande Mazzullo è morto. Però vabbè, dai, ho già raccontato un sacco di volte lo strambo DJ Mazzullo, che veramente era troppo forte. Però una cosa che mi piacerebbe tanto poter ascoltare in radio, di cui ho sentito parlare una volta Verdone, più di una volta raccontare Verdone di questa trasmissione della radio, la Radio Lazio. Radio Lazio, dove la Sara Lella praticamente faceva i consulti alle donne che avevano problemi di cuore, e ovviamente essendo la Sara Lella non era mai così delicata. Andava per speech, Sara Lella diceva ma ti fa soffrire, dai, caccio al culo, ma dai, io non so fare a faccia, caccialo di casa. Ma cioè, io non dubito che esistano registrazioni di quelle, non so che darei per poter ascoltare quelle, perché quelle, insomma, penso che veramente la facevano dentro, ecco, come facciamo noi a radio adesso, con il registratore, quelle cose, lo so, ma quelli sono reperti storici veramente. Infatti Radio Chenoir, Radio Chenoir, pensa, non c'era neanche il CD, andavano con le cassette. Una cosa bellissima, raga. Cioè una cosa fantastica. E poi vabbè, ho già raccontato altre volte di quando invece a Radio Incontro telefonavano la sera, quando nel periodo in cui, l'ultimo periodo in cui c'è stato il trio Medusa, poi dopo loro se ne sono andati, e gli telefonavo, gli raccontavo le storie tristi, che me volo suicidare e cose del genere, insomma. Però non era vero, però mi piaceva che si intristivano, capito? Cioè, vabbè, adesso il trio Medusa, se mai qualcuno dei tre del trio Medusa ci sta ascoltando, sa che tu non sei morto, no, o suicida. No, ma non parlavo con loro, perché okay, con loro era difficile prendere la linea, perché era l'unica cosa, cioè quando non c'erano loro non ascoltava più nessuno e quindi era più facile prendere la linea. Ma la radio ci ha accompagnato per tanto tempo, soprattutto a me e a te, negli ultimi 15 anni, vabbè 15 anni neanche, diciamo sì, negli ultimi 13-14 anni, no, ci ha accompagnato. Non dire quello che vuoi dire, perché c'è un ordine, c'è una scaletta. C'è una scaletta, ma tu non me l'hai mandata questa scaletta. Lo so, quindi faccio io. Adesso andiamo al primo brano, che è la cosa più importante, e mi raccomando, se avete comunque ricordi legati a qualche radio strana che ascoltavate, o comunque un vostro ricordo della radio in generale, fatecelo sapere, perché così, insomma, magari dopo ne parliamo. E adesso andiamo con il primo brano, che è Paolo Nutini. We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find religion to paint us with salvation, but no one, no, nobody can give you the power. A dream that cannot be in its harsh reality. Mass confusion, spoon fed to the blind, serves now to define our cold society from which we'll rise. Imbarazzo a volte comunque, perché è come, scusate, è come state pronte a, capisco, ci avete presente uno con l'ictus? Io non sono del mestiere. E comunque, allora, io ho scelto questa canzone per tanti motivi, perché comunque Paolo Nutini è veramente uno spettacolo di ragazzo con una voce incredibile. Iron Sky è il testo, sì. Cioè il brano, sì. Il brano si chiama Iron Sky, Paolo Nutini, quindi diciamo Enrico che voleva sapere il, sì, il titolo, anche giustamente, sì, perché di solito si annunciano e disannunciano, sì, i brani. Sì, sì, sì, sì. E soprattutto ci tengo a precisare che questa canzone è stata scritta da Paolo Nutini, perché comunque Ah, quindi Paolo Nutini. Sì, sì. Oh. Per praticamente denunciare tutte le atrocità che vengono compiute in nome di qualsiasi dio. E soprattutto ci tengo a sottolineare che la voce del monologo è quella di Charlie Chaplin alla fine del film Il Grande Dittatore. Quindi io trovo questa filmone, canzone filmone. Una grandissima opera, veramente. Per chi non l'ha visto, sì, sia il film filmone, ma anche la canzone, veramente con una citazione d'eccezione. Scusate la rima, però è veramente, veramente molto, molto, molto emblematica. E fa parte dei nostri tempi. Questa canzone cavalca i nostri tempi sempre di più. Comunque, prima di entrare nell'argomento vero, Enrico ci dice: cioè, beati voi che c'erate tutte ste radio. Io all'epoca c'avevo l'unica radio non nazionale, era Radio Padania. E io ho detto: beh, avrei approfittato, anch'io avrei chiamato. Però dice che già allora non si trovavano le linee, probabilmente. Sì, non fatico a dubitarla. Invece qui a Roma noi ci abbiamo avuto la fortuna che non soltanto c'erano tantissime radio private negli anni 80, ma negli anni 70 e negli anni 80, ma poi il boom vero c'è stato anche negli anni 90, perché nel periodo in cui le radio si stavano un po' accorpando a Roma, sta cosa è resistita, diciamo così. Ma c'erano tantissime talk radio, che era quella la cosa bella. E vabbè, ci sono ancora. Ci sono ancora, sì, sì. Le storiche talk radio che vanno avanti da 30 poi, anni. Mo se sono un po' più fossilizzate sulla Roma e la Lazio, diciamo così. Però in linea massima c'erano giornalisti che facevano ste talk radio, che raccontavano, facevano quelli che facevano le inchieste di notte, che ti raccontavano live quello che succedeva, e poi aprivano le linee telefoniche. E c'era un giornalista che io ho sempre adorato, che però adesso non mi viene in mente il nome, che tanto raccontava ste storie e faceva in questo momento di flusso di coscienza molto emotional, molto particolare, e poi apriva le linee, e tu gli telefonavi e lui diceva: dimmi la prima cosa che tiene in mente, no? E allora, che ne so, io gli telefonavo tipo 4-5 volte in seguito, però non so, forse non se ne accorgevano che ero sempre io. Non volevo raccontare queste cose perché sono veramente spettacolari. Ma detto questo, ci sono state le lezioni. Abbiamo finito, grazie. Il momento. No, vabbè, è bello parlare. Perché tu non mi telefonavi? No, perché tu. Che grigia, che vergogna. No, io telefonavo. Vabbè, ma io c'avevo proprio questo rapporto con i ragazzi di Radio Rock. Per cui il giovedì noi andavamo tutti o all'Alfeus o al Cube, quando il Cube non era sotto sequestro, perché è un nodo locale di Roma che ha passato più tempo a essere sequestrato per ragioni ignote che è attivo, e cioè potevamo veramente parlare e confrontarci con i DJ che ascoltavamo tutti i giorni alla radio. E io mi ricordo la cosa bellissima, io penso che sia la sigla delle 18:30, tutti i giorni alle 18:30 la sigla della trasmissione di Prince Faster, perché era veramente era un ensemble di cose, tra cui c'era anche la sorella, ma era veramente bellissima, una delle sigle più belle della storia. La sorella con Prince Faster. Sì. Ma davvero, è il principe? E quindi era veramente. Che poi sarebbe da raccontare. Perché una volta vogliamo fare uno speciale sulla sorella, perché sì, c'è veramente da raccontare tanto. Su sì, un personaggio che così casualmente, come ce ne sono tante a Roma, e come ce ne sono tante a Roma, che improvvisamente è diventata una sorta di simbolo della romanità, no? Quindi è un po' particolare, insomma. Anche non volendo. Anche sì, no, lei non è, ci ha mai pensato a sta cosa, insomma. Sì. Però dai, anche andiamo il mercato, diciamo, dei meccanismi. Comunque, sì, magari un giorno riusciremo in qualche modo. Mi riprometto di avere ospiti, sicuramente Prince Faster. No, sicuramente Prince Faster, magari un'ospitata ce la farebbe pure. Ma come no? Vediamo un po', ci proviamo. Ci viene. Io la faccio addosso, ce l'ho sempre, quindi vediamo un po'. Allora, comunque, un riassunto generale: ci sono state le elezioni europee, cioè quindi siamo andati a votare, diciamo, per il rinnovo del Parlamento europeo, e quindi di conseguenza anche tutti i meccanismi, diciamo, che subentrano successivamente all'insediamento del nuovo Parlamento. Aspetta, perché quella dei lobby dobbiamo leggerla. Anch'io telefonai una volta a una radio, dissi: ah, stronzi, e riattaccai subito. Esatto, infatti quella radio ancora ride per questa cosa. Soprattutto perché glielo chiese proprio, cioè, quindi è una cosa fantastica. Comunque, poi dopo leggiamo anche quella di Enrico, però andiamo un attimo, sì, diamo un senso a quella, perché sennò poi dopo andiamo un po' disordinati. Quindi c'è stato praticamente il voto per rinnovare il Parlamento Europeo ed eravamo tutti un po' preoccupati, diciamo così, perché questa tendenza che ormai abbiamo visto, poi dopo andiamo anche sul discorso locale, però insomma, diciamo, a livello generale, questo populismo, questo... Come si chiama? Vabbè, questa nuova tendenza. Questa deriva. Nuova tendenza, insomma, che quasi anti-europeista, che inizialmente iniziava un po' a preoccupare, diciamo, i vari establishment, le varie situazioni, insomma, anche a livello generale, a livello di stabilità, pure per una Europa che sicuramente andrebbe un po' riformata, andrebbe un po' risistemata, ma che non andrebbe distrutta, perché comunque c'è tutela dagli interessi aggressivi, insomma, degli Stati Uniti, che soprattutto con questo nuovo presidente guardano molto ai loro cazzitti, e insomma guardano molto meno i loro cazzitti e i cazzitti degli altri, e sovranisti, ecco, non mi veniva il termine dei sovranisti, quindi era un po' questo. E che cosa è successo? È successo che tutto sommato è arrivato Lobby e si è salvato. Tutto sommato è andata peggio di quanto pensavamo. No, tutto sommato non è, a livello generale non è andata male. Allora, a livello generale non è andata male, perché comunque allora, quello che si è cercato di fare, forse per la prima volta intelligentemente, è la maggioranza ha cercato di focalizzarsi più sul voto del gruppo principale e non di tutti questi partitini, partiducci, partitelli, che comunque non danno risultati veri e propri. Quindi purtroppo la Lega è a livello nazionale, a livello nazionale, sì, purtroppo sì. La Lega è comunque avanti, è comunque al 30% circa, giusto? Sì, no, la Lega è avanti, ma se stiamo parlando a livello europeo, perché dopo parlavamo di quelle nazionali. A livello europeo, se mi segui, la Francia. Se ascoltato solo la musica, sarebbe carino. No, ti ho seguito, solo che a un certo punto tu parti per la tangente, io... Non parto, allora... Mi perdo. Allora... Ti faccio l'introduzione semplice, così poi dici la tua. A livello europeo, nel rinnovo del Parlamento europeo, i sovranisti non hanno sfondato, così come si pensava, anche se hanno la loro buona fetta. Hanno la loro buona fetta, però diciamo che la grande sorpresa è che la maggioranza ce l'hanno comunque i popolari, i socialisti, più un'altra ovviamente fazione, perché i popolari e i verdi, tantissime fazioni, tantissime nazioni comunque hanno i, non mi ricordo se era l'Olanda, la Germania, ma vado a controllare, l'Olanda, la Francia sono arrivati terzi. In generale hanno fatto. In Germania sono arrivati secondi. In generale i verdi hanno fatto un esplo abbastanza consistente, insomma, e diciamo che hanno messo un po' una pezza laddove praticamente sono stati problemi di grande crisi del partito, dei partiti all'interno del Partito Popolare Europeo o del Partito Socialista e Democratico. E alla fine una maggioranza c'è se si unisce Partito Popolare Europeo, Partito Socialista e Democratico e ALDE, che poi io ALDE onestamente non è che ho ben capito chi cazzo di aggregazione è, però penso che non so i verdi, perché i verdi per esempio sarebbero in una coalizione possibile di tutta la sinistra del Parlamento Europeo, che comunque non raggiungerebbe la maggioranza. Però fatto sta che, diciamo, in seno altro, i sovranisti sono abbondantemente all'opposizione, questa è una cosa notevolmente positiva. So che in Grecia è successo un macello, so che in Francia Le Pen ha superato Macron, e vabbè, in Inghilterra sono andati a votare tipo il 30% delle persone, giusto perché sono andati a votare e ha vinto Farage. Austria è già stato sfiduciato il cancelliere Kurz, contro di lui socialdemocratici d'estrema destra. Sì, ma lì c'era già un qualcosa in precedenza che ha fatto qualche casino che non ho seguito bene. Diciamo che il sito di Repubblica è un po' ingarbugliato. Sì, ingarbugliato, stavo cercando di capire qual è la situazione in Europa proprio perché era quella che volevi, ma ecco, non avendo mai avvertito, però. No, te l'ho letto io. Allora, Partito Popolare e Partito Socialdemocratico insieme da soli non hanno la maggioranza, perché hanno solo 326 voti. Okay. Partito Popolare, Socialdemocratici e ALDE invece avrebbero la maggioranza con 435 seggi. Mentre il Partito Socialdemocratico da solo, quindi senza il Partito Popolare, più ALDE, più Verdi e più GUE che non so chi siano, hanno il 363 seggi e quindi non avrebbero la maggioranza. Quindi l'unica maggioranza possibile non è più Partito Popolare Europeo più Socialdemocratici, che erano la maggioranza unitaria, insomma quella che c'è stata fino adesso, ma devono aggiungere ALDE, che però io veramente non so bene di che tipo di sigla sia e che cosa racchiuda ALDE, aspetta che lo cerco io, quindi lo cerchiamo. Insomma, diciamo che questo un pochino, anche se veramente hanno preso tantissimi seggi i sovranisti e l'estrema destra e comunque tutto il populismo aggregato, però devo dire che tutto sommato Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa. Ah, ok, vabbè, sì, insomma, praticamente si andrebbe a fare un po' quello che c'era col pentapartito in Italia, cioè i liberali, i socialisti e i democristiani, insomma, fondamentalmente. Quindi tre aree politiche che sono però unite dall'europeismo, quindi praticamente dal fatto di voler tenere unita praticamente l'Europa, contro ovviamente questi sovranisti che abbiamo detto non hanno sfondato, ma insomma bei voti hanno presi comunque. Non hanno sfondato, bei voti li hanno presi e Cocco hanno confermato che c'è un grande disagio sociale non solo in Italia. Poi beh, diciamo che non sono in Italia, perché questa cosa è partita dalla Polonia, dall'Ungheria, che si sono anche riconfermati, quindi insomma evidentemente qualcosa che non va c'è. E io a questo punto farei un altro bel, diciamo che è un governo, cioè questi governi con sti muri e con ste, sì, è un po' triste ritornare indietro a queste vecchie logiche, queste vecchie meccaniche, insomma, no, del fatto è molto pericoloso, molto pericoloso. Vabbè, adesso mettiamo un brano e andiamo poi a vedere un secondo quella che è la situazione in Italia, perché in Italia non soltanto ovviamente ci sarebbe da dire, ma ci sono anche delle sorprese importanti che ovviamente ci hanno un po' deluso, insomma, diciamo così. Lo voglio annunciare il secondo brano, Michela? Sì, è un grande ritorno per me, perché io sono molto fan di questo musicista, cantante, un po' asociale, un po' particolare, però io l'ho sempre apprezzato molto. Ascoltiamo Bittersweet Symphony di Richard Ashcroft. life. Michela, che alla fine, se vai a vedere, ognuno di noi o tante persone che conosciamo hanno avuto a che fare con la radio prima o poi, perché comunque sì, la radio, anche mio padre. Ah sì, vedi, sì. Allora racconta, perché qui c'è Enrico, ci dice il padre quando era giovane negli anni 70 ha fatto lo speaker in una radio privata locale, chiaramente, e faceva gli oroscopi, cioè però li faceva completamente a caso, eppure la gente andava lì e diceva bravo, complimenti, ci azzecchi sempre. Ma in realtà è il trucco dell'oroscopo, no? Cioè di una cosa potenzialmente piacevole da sentire, e che la gente dice ah beh sì sì, questo so io, io ci riconosco quanto sono forte. Invece tuo padre che faceva, Michela? No, mio padre non faceva la radio direttamente, però noi a Montredondo lui era abbiamo... la radio. No, a parte lui suonava la batteria in un gruppo rock, c'aveva i capelloni. Ma mio chi? Padre, ma davvero? Mamma, sì, sì. Che cose brutte. E soprattutto a Montelotondo c'era questa radio storica, Radio Montelotondo, immagino. No, che poi cioè, era comunque una derivazione sempre di questa famosa radio rock, però che erano, se erano scissi eccetera. E a Piazza Roma c'era sto personaggio dove tutti andavano, magari mettevano i dischi, facevano. Tra l'altro sono andati perduti talmente tanti dischi, soprattutto mio zio c'aveva una collezione pazzesca che aveva un po' deturpato da questa radio, e ha perso tutto, quindi gliemenerei. Però vabbè, ognuno c'ha parenti che se merita. Magari l'ha rivenduta. Non credo. Vabbè. Però insomma Una volta facciamo uno speciale sulla radio, vogliamo sentire sì, tutte le esperienze, le raccogliamo prima e poi dopo ne parliamo. Tutte le radio indipendenti dentro casa, un po' tipo la nostra, insomma. Esatto, sì, sarebbe carino, perché vabbè, poi questa puntata tra poco non ne parliamo, c'ha un po' a che fare con questa cosa, però poi non così direttamente. Allora, invece a livello locale, torniamo a livello locale, cioè praticamente in Italia. Adesso io perché dice qualcuno non ha seguito attentamente, insomma, ve lo dico io. La Lega sta al 34,3% in Italia, ok? Questa è una cosa abbastanza importante. Il PD sta al 22,7%, che rispetto alle europee scorse ha dimezzato i voti, ma ha riguadagnato risuperando il Movimento 5 Stelle, che sta al 17,1%, che ha completamente dilapidato un patrimonio elettorale veramente senza, cioè in un modo quasi indegno. Forza Italia è arrivata all'8,8%, tutto sommato penso che abbiamo anche un po' guadagnato. Quello che invece secondo me ha guadagnato di più, che quindi ha cresciuto a forza di stronzate lì, insomma cose demagogiche, al 6,5% è il Fratelli d'Italia, quindi la Meloni. Mamma mia. Cioè Europa Più, che sarebbe ALDE, quindi vedi, sai che sta nel gruppo ALDE, vedi, quindi che praticamente sta al 3,1%, quindi sono liberali democratici, tipo repubblicani di una volta, anche forse una cosa del genere. Europa Verde, quindi Verdi e ALE, che sta al 2,3%, tutti questi non hanno ovviamente ottenuto nessun seggio, quindi praticamente dalla Meloni in giù tutta sta gente non ci ha avuto più nessun seggio, quindi la sinistra all'1,7%, niente, purtroppo. Io spero che prima o poi lo capiscono, che se non si uniscono in blocchi più concentrati non si va da nessuna parte, perché abbiamo, cioè vabbè, purtroppo parlo da elettrice di sinistra comunque, in un elettrice, modo o nell'altro, quindi faccio coming out, oh. se così, che stai a ridere? Non ti vedo questo. Il risultato è abbastanza aberrante, perché comunque sapere che la maggioranza è della Lega e sapere che praticamente i 5 Stelle gliel'hanno servita su un piatto d'argento, e che tutta la gente che praticamente ha votato 5 Stelle si è trasferita tutta la gente di destra che ha votato 5 Stelle si è trasferita direttamente su Salvini, è abbastanza preoccupante come dato statistico e matematico e reale di questo paese. Sapere che Salvini ci rappresenterà in Europa mi mette veramente i brividi. Ma non è che ci rappresenterà in Europa, perché cioè, alla fine va a fare il deputato europeo come tutti gli altri, insomma. Sì, perché l'ha fatto già tanto, insomma, appunto, quindi cioè, non è che cambia niente. C'è da dire dall'altra parte che allora noi stiamo ragionando in termini proporzionali, quando oramai ovviamente il Parlamento italiano non si compone più solo su quota proporzionale, oramai da 20 anni, 30 anni praticamente, come quando ero ragazzino io, che si votava praticamente su base proporzionale e si, poi si facevano il numero dei seggi che prendevi o che non prendevi, ma si ragiona su base maggioritaria, quindi praticamente in realtà non sappiamo quanti seggi verrebbero attribuiti alla Lega o al PD rispetto alle percentuali che loro hanno ottenuto, perché anche se a livello generale la Lega ha ottenuto il 34%, comunque magari l'ha ottenuto in aree geografiche dove magari il numero di seggi distribuiti per territorio è inferiore, quindi in realtà la cosa è anche leggermente meno drammatica di quello che sembra. E se consideriamo che Firenze e Bari hanno anche preso il sindaco di centrosinistra prima, la prima botta, senza neanche passare il ballottaggio, tutto sommato, secondo me, un minimo, insomma. Sì, anche dal punto di vista comunque dei risultati delle europee, se ragioniamo per zona geografica, Milano comunque c'è una maggioranza del PD, ha votato a maggioranza sinistra, quindi insomma. Ma anche a Roma, anche a Roma. E quello che è stato proprio cancellato, che ci dimenticheremo presto, che purtroppo è il governo, quindi non so, è un paradosso, è proprio il Movimento 5 Stelle, cioè ha dimostrato di essere praticamente maledetti, inutile. No, ma neanche maledetti, praticamente inutili, inutili del tutto. E raga, sta gente ci sta governando, ci sta portando al buio posto, più totale. Ci sta portando in del posto. Sì, abbastanza in del posto, in del sì. Posto. Che, insomma, che è la cosa migliore che possa succedere, quello di essere portati in del posto. No, ma magari. Andiamo a Monterotondo, che è bello, interessante a Monterotondo, perché Monterotondo, voi dovete sapere, e qui lascio la parola a Michela che è più esperta di me, che a Monterotondo ha sempre governato il centrosinistra. Sempre. Da però, 70 anni, anche quando praticamente si sono portati via il sindaco con le manette addosso, l'hanno trascinato via dal comune e arrestato, comunque c'è sempre stata la sinistra, anche se ultimamente l'ultimo mandato del nostro sindaco di sinistra, che tra l'altro è una persona che io conosco veramente molto bene, quindi mi dispiace dal punto di vista personale dover dire queste cose, è stato veramente uno scatafascio totale, cioè, tra l'altro questo sindaco Alessandri, Mauro Alessandri, che ha ritenuto opportuno di lasciare il comune in una situazione abbastanza delicata, perché comunque gli era stato offerto un incarico alla regione per andare dietro a Zingaretti. L'abbiamo fatto tutti, dai, su. Ovviamente sì, cioè, nel senso, ognuno guarda la propria carriera, però comunque ha lasciato un paese nella merda più totale. Merda, scusate. Merda, che in italiano significa merda. Scusate la parolaccia. E quindi questa cosa non so se gliela perdoneranno molti, perché poi vabbè c'è stato un diciamo così, in fretta e in furia si è dovuto fare una distribuzione di incarichi alla buona, perché comunque non si poteva lasciare un vice sindaco come quello che era reggente, come quello che era il dottor Cavalli, che credo che ci abbia la terza media, forse se c'è le superiori se le ha comprate. E vabbè, mica non esageravo, perché no vabbè, no. Però non era assolutamente in grado di reggere comunque un incarico tale, e quindi è stato incaricato un vice sindaco, che è Lupi, che in pratica è un credo sia il nipote o il figlio di un ex sindaco a Monterotondo, e quindi questa situazione è un po' confusa. Diciamo che in qualche modo ha dato spazio alla destra. Per il momento la destra è in pari con il PD, con la sinistra e con tutte le formazioni di sinistra, quindi il candidato Riccardo Varrone di sinistra andrà a ballottaggio con il candidato di destra Simone Di Ventura. entrambi sono molto giovani, entrambi sicuramente sono stati scelti per motivi che io non conosco tra nessuno di loro due. Forse conosco un po' meglio il candidato di destra, ma per altri motivi lavorativi, però non saprei che dire, se non che forse dopo 70 anni rischiamo che la destra si prende il comune di Monterotondo. E questa è una piccola realtà, però insomma, per farvi capire come le realtà consolidate vacillano molto in questo momento. Tra l'altro, dal punto di vista delle elezioni europee, i risultati sono che il 30, qualcosa per cento ha votato comunque per la Lega, per Salvini, e il 21% ha votato per il PD, e il restante 12% ha votato per i 5 Stelle. Ciò nonostante, il sindaco di centrosinistra è comunque in vantaggio sulla fase di elezione. Vanno al ballottaggio, sì. Dove ballottaggio, chissà quello che può succedere, insomma, perché onestamente spero che comunque resti la sinistra a lottare nel comune, e che comunque finalmente insomma si riprenda un attimo anche in generale, cioè questa sinistra comunque in qualche modo deve capire che c'è bisogno di unione, di compattezza, e di tornare a parlare col popolo, cioè nel senso, quello che abbiamo visto nel nostro piccolo, quello che ho visto, ho visto praticamente una mancanza di proprio di vicinanza al paese, dal punto di vista del comportamento, diciamo così, dell'ex sindaco Alessandri. Quindi questa cosa poi si rispecchia anche a livello nazionale, e credo che forse Zingaretti sia abbastanza la persona indicata per poter dare una svolta a questo PD, se non altro insomma un messaggio agli elettori l'hanno mandato, sì, un messaggio agli elettori l'hanno mandato, e quindi spero che lo accolgano. Poi vedremo come andranno le elezioni comunali di Monterotondo, come andrà a ballottaggio. Tra l'altro, una cosa divertente, il sindaco il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Monterotondo ha mandato in giro dei manifesti veramente esileranti, per cui le elezioni si sarebbero dovute svolgere il 29 maggio piuttosto che il 26 maggio, quindi di questo poi parleremo un'altra volta. Mercoledì davanti alle scuole per votare. Quindi probabilmente gli elettori del Movimento 5 Stelle non hanno ancora votato, voteranno il 29 maggio, quindi non lo so, però è veramente tutto qua succede, cose dell'altro mondo. Mondo. Va bene, andiamo al brano successivo. Andiamo al brano successivo, che aspetta che il titolo è un po'... Allora, questo brano è cantato da Florence and the Machine, e è un omaggio, secondo Florence, ma anche secondo me, ad Arya Stark. Ascoltiamo Jenny of All Stones dalla colonna sonora di Game of Thrones. Dedicate this song to Arya Stark. Who saved us all. She had lost an one. this one her own on a damp pile of stars, spun away on her sorrow unpaid, and she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. They dance through day and into the night, through the snow that swept through the holes, from winter to summer and winter again, to the walls that crumble and fall. And she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. And she never wanted to leave, rientriamo dopo questo bellissimo brano, sì. Ovviamente dedicato ad Arya Stark, Who Saved Us All, della casa di Stark, come ha detto come ha detto Lobby, peccato che poi non è fregato più un cazzo nessuno, no, però ci fanno uno spin off. Ma sì, però veramente Sono abbastanza convinto che ci facciano uno spin-off Game of Thrones, che ci ha regalato tante gioie e tanti alcolismi, soprattutto nell'ultima puntata, ma queste sono altre storie. Ma che alcolismi all'ultima puntata? Basta questa storia, che non è vero niente. Comunque veniamo al dunque. Veniamo a noi. Noi veniamo... ieri? Sì. Proprio ieri, Sì. Notizia così. Noi di solito, in generale, quando viene a mancare qualche personaggio storico importante o un personaggio famoso, insomma, di una certa rilevanza, sì, ci dispiace, ma non è che siamo quelli che cominciano a scrivere: insegna gli angeli, insegnerai gli angeli a fare questo, a bestemmiare contro Fillon. Esatto. E quindi nel suo caso. E quindi niente, a volte noi, insomma, questa cosa la tendiamo, insomma, a dispiacerci, ma insomma teniamo magari le cose per noi, perché poi secondo me è anche un po' l'esagerazione, no? Come ti ricordi quando sono morti Raimondo Vianello, no? E dice: ah, mancherai, come se fosse, capito, uno di casa nostra, insomma. Invece secondo noi ci sono poi dei personaggi che in qualche maniera ti sono piaciuti, ti sei affezionato, perché li vedevi, li ascoltavi, li sentivi, li leggevi e in qualche maniera hanno anche condizionato, no, qualcosa, perché sì, magari hanno ispirato il fare qualche cosa. E nello specifico ieri, insomma, ascoltando a Michela sul cellulare, tra i vari Twitter, insomma, era uscita la notizia che era venuto a mancare Vittorio Zucconi, e che Vittorio Zucconi è venuto a mancare dopo una lunga malattia, quindi evidentemente era una cosa anche abbastanza risaputa. Poi facciamo un attimo un appunto pure su questo, e questo ci ha un po' colpiti. Abbiamo ascoltato un po' Radio Capital e ci siamo condivisi, no? Dicevamo: vabbè, ma allora perché non dedichiamo un pezzo, cioè dedichiamo un pezzo di trasmissione a Vittorio Zucconi, se non addirittura un po' la trasmissione intera. Vai. No, vabbè, io volevo fare un preambolo, perché Vittorio Zucconi è praticamente, oltre che una voce storica, è un personaggio storico in tantissimi ambiti. Io, tra l'altro, personalmente ho iniziato a scoprire e a leggere lui, ovviamente su Repubblica tantissimo, ma anche mi hanno parlato benissimo di lui al Centro Studi Americani, perché comunque aveva scritto dei saggi, dei romanzi comunque molto dedicati comunque alla vita americana, agli indiani d'America, eccetera eccetera. E soprattutto lo ringrazierò sempre perché negli ultimi 15 anni, come cercavo di dire prima, ma poi ci siamo confrontati e abbiamo deciso di parlarne adesso, negli ultimi 15 anni noi l'abbiamo ascoltato praticamente tutti i giorni. Ci svegliavamo la mattina, partivamo da casa con Risponde Zucconi e tornavamo a casa col TG0 e era diventato praticamente poi i suoi articoli e il Twitter, per cui l'abbiamo visto imparare ad usare Twitter e una volta che poi ha imparato è diventato veramente il profilo Twitter più figo del mondo. E era una persona comunque un soggetto particolare in tutti i modi, però era una persona che amava molto il popolo, che amava molto la gente e si sentiva molto questo confronto che c'era, questo amore che dava comunque alle persone e che comunque riceveva, perché noi tutti eravamo molto affezionati a lui. Io personalmente, poi lascio la parola a Simone, ho scelto di non ascoltare più Radio Capital, anche se lui era ancora presente. Dopo alcune scelte redazionali e dopo che lui ha lasciato l'incarico come direttore, ovviamente non sapevo che stesse male, non potevo immaginare, quindi non c'è rimprovero o altro, però comunque è comunque finita un'epoca da quando lui ha cominciato ad essere assente. E la cosa molto bella che ho ascoltato oggi, perché non conoscevo questo diciamo così, questo passaggio, è che lui a gennaio sapeva di dover morire e aveva salutato tutti raccontando che avrebbe fatto un viaggio con una spider coast to coast in America. Ovviamente era tutto uno scherzo, però è stato, magari se vi capita recuperatelo, perché è stato molto bello ascoltare questo addio. È uno è un addio che tu dici: cavolo, se succedesse a me vorrei poter riuscire a fare la stessa cosa. Quindi è stato un grande personaggio in tanti ambiti, ci ha fatto tanto ridere. L'ultima volta che l'ho ascoltato aveva praticamente litigato in un modo, vabbè, non mi viene sta parola, aveva discusso in un modo veramente molto animato con Pillon e l'ho sentito veramente preoccupato per questo, per la deriva di questo paese, e quindi ci dispiace moltissimo che se ne sia andato e ci tenevamo molto a salutarlo. Poi Simone ci vorrà sicuramente raccontare il momento in cui l'abbiamo incontrato. Sì, allora, dei corrispondenti come lui probabilmente ce ne sono stati, dei grandi maestri del giornalismo, però ecco, Zucconi ha raccontato un mondo che oggi non esiste più, perché lui è stato corrispondente dall'Unione Sovietica, da Mosca e poi da Washington, quindi ha raccontato i due mondi, no? le due facce, però è il modo in cui lo faceva, no? Questo modo particolare di parlare con la gente, che è lo stesso che lui utilizzava quando stava in radio, no? E quindi alla fine, diciamo, a noi ci ha anche ispirato, no? Quindi credo che sia stato corrispondente in molti paesi, molti, asiatici, sì, sì, non solo in Russia, perché lui raccontava come spesso è stato a Washington, è stato anche molto, sì, tempo a Londra, a Mosca, perché sì. Poi lui infatti raccontava molto del fatto che lui stava un periodo in cui poi il bello è che le sapeva tutte le lingue, cioè, sì, era uno. E soprattutto i suoi figli, cioè i racconti bellissimi erano quelli sui suoi figli che comunque crescevano nel posto in cui lui stava, un po' come un Tiziano Terzani sì, d'epoca, insomma, quindi forse dei reporter veramente d'altri tempi e personaggi che veramente ci avevano delle storie forse da raccontare. Troppo spazio ai Terzani e poco spazio ai Zucconi, forse no. anche questo, ci hanno avuto entrambi spazi. Comunque questo modo di raccontare, di parlare quando era nei teatri, quando faceva le conferenze, quando era in televisione o quando lo fermai per strada, è lo stesso modo che lui appunto utilizzava come tipo di linguaggio, come proprio, si vede proprio che lui gli piaceva questo modo di fare radio, che ci ha ispirato in qualche maniera, sì. Ed è stato forse il momento in cui ha dato anche un po' inizio, quindi per noi c'è un legame, come posso dire, anche simbolico, no? Sì, diciamo che noi l'abbiamo incontrato in una cornice. Scusa Simone, forse volevi parlare tu, balla tu. No, vai. No, finisci, dai, ora non lo so più cosa stavo a dire. No, l'abbiamo incontrato in una cornice molto, molto bella, che è quella del Festival del Giornalismo, che era un festival che lui appoggiava molto e era molto... Beh sì, perché lo faceva Repubblica, quindi... Sì, lo faceva Repubblica, però diciamo che si sentiva... Cioè, ha spesso detto che si sentiva il bisogno di questo festival, che era veramente molto... È un festival... molto importante. Ti lascio la parola, se no mi ammazzi prima o poi. Ma no, vai. Perché stavo, almeno fammi venire il pensiero. Scusami. Poi dopo uno si dimentica. Comunque, vabbè, abbiamo detto, è stato di ispirazione anche per di tutto un podcast, EPN e tutto il resto. Comunque, proprio per di tutto un podcast, noi eravamo andati a questa edizione del 2012 del Festival del Giornalismo, dove abbiamo fatto un lavoro, secondo me, straordinario, al di là di tutto, con Sonia Topazio, Paolo Perini, Vera Arma, e Michela e io. E un lavoro straordinario, perché praticamente noi quotidianamente pubblicavamo contenuti su tutto quello che era stato il ovviamente il festival, i vari panel, le varie cose, quindi questo alla fine era un po' come essere veramente inviati da, come una redazione professionistica, insomma, cioè questo ci ha fatto veramente molto piacere, che ci abbiamo messo lo stesso tipo di impegno. E nell'ultimo giorno in cui eravamo lì, e quindi anche nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto da Perugia, siamo andati a vedere appunto questa conferenza dove c'era Zucconi e altri giornalisti, che si parlava insomma di tecnologia, di media, perché poi c'è stato un periodo dal 2012, poi ancora oggi si discute, no, su giornalismo web giornalismo, blog giornalismo blog, perché sì, sai, diciamo che quello era il periodo della nascita delle primavere arabe, per cui quel festival, soprattutto quel festival, era incentrato proprio sul domandarsi quanto queste nuove tecnologie potessero essere in qualche modo veicolo e fonte di notizie in modo anche innovativo. Comunque lì insomma, in quella specifica conferenza lui è stato molto istrionico, no? Sai, quando poi alla fine è stato divertente, perché comunque lui raccontava il giornalismo, raccontava gli altri giornalisti sempre con questo sorriso, no? E alla fine comunque c'è stata poi l'opportunità di incontrarlo fuori dal teatro e di intervistarlo, no? Quindi è stata una cosa per noi, era... poi cioè, ha detto vabbè, Michele mi ha mandato tipo allo sbaraglio, perché era, cioè, la potevamo fare insieme, invece no, mi ha mandato e quindi ero particolarmente emozionato, insomma, di riuscire a fermare Zucconi e chiedergli, insomma, fargli alcune domande per Italian Podcast Network. E adesso magari questo è un po' il nostro ricordo, no? Prima di lanciare questo pezzo, c'è anche un pezzo che ci ha mandato pure Stefano Paganini, che io ringrazio. Prima della trasmissione ha telefonato chiedendomi se poteva, però il pezzo è un po' lunghetto e mandare due pezzi così è un po' particolare, quindi lo mando il pezzo di Stefano, ma lo mando dopo i saluti, cioè quando ci salutiamo mando il pezzo di Stefano, perché anche quello va ascoltato come è giusto che sia, insomma. Però perdonami Stefano se magari lo mando dopo. Nel frattempo adesso ci ascoltiamo questo piccolo pezzo di questo in questa piccola intervista che abbiamo fatto a Zucconi, con io un po' emozionato, lui sempre molto accogliente, sempre molto chiacchierone, ma soprattutto ci pare è bello, perché stiamo parlando del 2012 e già sembra un'altra società, già sembra un altro tempo, cioè sembra si parlava di Berlusconi anziché di Salvini, ma poi la sostanza in realtà, cioè, è cambiata tanto, ma manco più da tanto, insomma. Quindi faccio Miela, vado? Vai, vai. Dimmi. Buonasera, Simone Pizzi per Italian Podcast Network. Due domande sul cambiamento, molto veloci. Allora, come nel suo intervento lei ha parlato di come le interessa il cambiamento con il rapporto con i suoi lettori e in alcuni casi anche con i suoi ascoltatori, visto e considerato che è direttore di Radio Capital. La radio ha cambiato comunque un po' il rapporto, l'ha anche umanizzato questo tipo di rapporto? Ma tutto quello che serve a farti conoscere, riconoscere le persone alle quali tu parli, per le quali scrivi, ti cambia. Cioè, noi abbiamo per anni vissuto e lavorato come giornalisti in perfetta solitudine, dentro delle capsule spaziali, delle astronavi chiamate giornali o settimanali. Improvvisamente si sono aperte le porte e siamo usciti su un pianeta dell'umanità, dove abbiamo visto che i nostri lettori avevano facce, nomi, interessi, paure, voglie, e questo per me è stato, sia con la radio sia con la rete, entusiasmante. Cioè, veramente, come diceva Pietro Nenni molti anni fa, un fiasco di vino a stomaco vuoto. No, perché io conosco gente che quando si nomina Zucconi fanno riferimento a zio Vittorio, no? Perché si è creata questo rapporto quasi familiare nei confronti del rapporto ascoltatore della radio con il direttore della radio stessa. Guarda, io ho un difetto che può anche essere un pregio. Lo so che suona un po' fesso dire una frase del genere, ma te la dico lo stesso. A me piace la gente. Io sono quello che in inglese si chiama una people person, cioè a me piace stare fra le persone, sentirmi insultare, non me ne importa niente. Cioè, mi piace la gente, mi piacciono in particolare le donne, ma questo è un dettaglio, ma non soltanto per le note ragioni. Mi piace come pensa, perché sono diverse da me, quindi io come uomo un po' quello che pensa un uomo lo capisco, le donne non. Quindi credo che questo traspaia. Io ho sempre pensato una cosa, anche quando non c'era il rapporto con i lettori o con gli ascoltatori o i blogger, che chi ti legge capisca se tu sei sincero o se stai facendo il figlio di puttana quando scrivi, se menti o se sei sincero. Nessuno riesce a mentire per sempre. Attraverso le tue parole chi ti legge avverte se tu stai cercando di dire qualche cosa che tu pensi sia vero e sia necessario dire, o che stai semplicemente cercando di vendergli un pacchetto di lamette. Ok, una battuta velocissima sul fatto che lei, un giornalista che lavora molto e ha lavorato molto all'estero, negli ultimi anni quanto è cambiato il rapporto con i suoi colleghi a livello internazionale, ovviamente per quello che riguarda la degenerazione della nostra società, diciamo così? Ma dei colleghi non me ne frega niente, i colleghi si fanno gli affari loro, io mi faccio i miei, chi è senza peccato scagli il primo giornale o la prima tablet. Quello che invece è stato molto pesante, e lo dico assolutamente senza nessuna intenzione politica, è stato vivere in questi anni all'estero, dovendo affrontare le occhiatine, i sorrisetti, le gomitatine, a lei italiano, quindi siete tutti, è questo veramente fastidioso, perché avevamo impiegato generazioni per cominciare a liberarci dal siamo tutti mafiosi, siccome tu ti chiami Zucconi, hai il nome che finisce con la I e quindi sei italiano, adesso siete tutti Berlusconi perché hai il nome che finisce per la I. No, io ho dovuto cercare invano di spiegare anche ai miei studenti, io insegno anche in università americane, che non siamo tutti così, forse siamo anche peggio, ma non siamo tutti lo stesso. Yeah. Ammazza e caciara, eccoli Ipegem. Allora, io ho voluto salutare Vittorio, zio Vittorio, con tutta l'energia e con tutta la forza che potevo avere, ovviamente con Eddie, perché Eddie c'è sempre, il dio Eddie è sempre presente. E quindi abbiamo ascoltato Dude Evolution, che penso che tutti conoscono al mondo, e quindi salutiamo con grande gioia, oddio no, con grande gioia non perché sia mancato, però cerchiamo comunque di salutare questo personaggio che ci ha fatto veramente appassionare molte volte, molto spesso, e a volte Simone sa, prendeva pure un po' con lui. Beh sì, a volte, vabbè, ma è giusto anche, senso... Però l'abbiamo sempre stimato molto, e questa stima risuona dovunque, e quindi salutiamo questo grande zio. Buon viaggio Vittorio Zucconi. Allora, continuiamo. Noi non lo diremo mai, insegna agli angeli a fare la radio. No, anche perché lui non sapeva neanche come si faceva la radio, io facevano tutti i collegamenti, le cose. No, vabbè, devo dire che insomma, una volta, dai, vai. Allora sì, Lobby dice che questa canzone ha un video bellissimo, e sono d'accordo, veramente un video pazzesco, e se non l'avete visto recuperatelo. E di che parliamo? Parliamo di certi simpaticoni. Ultimo argomento, un argomento molto molto molto molto triste, veramente triste, perché circa un paio di settimane fa l'Alabama praticamente, aspetta che non mi ricordo esattamente, aspetta, Alabama è quegli stati degli Stati Uniti dove, che nessuno conosce, però sai che ci stanno, che ne so, i gamberi in Alabama, giusto? Perché mi ricordo Forrest Gump c'aveva qualcosa a che fare con l'Alabama. Allora, lo stato dell'Alabama ha cercato di portare praticamente questa proposta sulla legge antiaborto il 15 maggio, che è stata comunque tramutata il 15 maggio, tramutata in legge, che criminalizza l'aborto in quasi tutte le circostanze, anche in caso di stupro e incesto, e punisce i medici con pene fino a 99 anni di carcere. La miseria, che è? Ma manco a tempo la consulta che ha fatto questa legge, che ha proposto e emulgato questa legge, è una consulta fatta interamente di uomini, che vi farei vedere che persone sono, cioè veramente gli uomini più disgustosi della faccia della terra. Uomini, sì, una cosa impressionante. E a quanto pare un'associazione che si chiama Planned Parenthood, che si batte per il diritto all'aborto, ha presentato una causa contro lo stato dell'Alabama per bloccare questa legge. E questa causa è stata presentata il 24 maggio, quindi vedremo come andrà a finire, però veramente la deriva che sta prendendo forma anche qua in Italia, cioè comunque sì, con Verona, con i cartelli che abbiamo visto a Roma ultimamente, per cui praticamente che inneggiano all'aborto come un abominio. Io sono senza parole, non riesco neanche a immaginare che cosa passi per la testa di queste persone, perché cioè, non esiste il corpo. Per me la cosa principale è il diritto di libero arbitrio, quindi di poter scegliere per il proprio corpo e per il proprio futuro. E, il problema è che questa cosa ci porterà comunque a un ritorno al Medioevo, prendetelo con le pinze, tra virgolette, per cui praticamente ci saranno tantissimi dottori che abortiranno, magari faranno pratiche d'aborto in modo illegale, quindi tante morti, tantissime vittime, di queste leggi pazzesche, ma soprattutto immotivate, cioè non riesco a capire come dei diritti acquisiti ormai da anni possano essere messi di nuovo in discussione. Ah sì, poi vabbè, come dice Lobby, con ministri che vanno in giro agitando rosari e santini vari, e come in Italia succede con Salvini, ma in Alabama in nome di chissà quale dio fanno questi ministri, no, c'è pure ministri. Quell'altro personaggio in Emilia Romagna che è stato condannato per apologia del fascismo, che va in giro vestito da monaco con la Bibbia del 1300. Me lo so perso, grazie al cielo. No, io no, perché comunque, io che non me li perdo. Io so che qua ci sentono poche donne, quindi spero che la quota rosa aumenti. Non perché non vi voglio bene, amici maschietti, ma abbiamo bisogno di donne e in tutto il mondo. No, io penso che non c'è bisogno, non è una questione di donne, cioè qui è una questione dei diritti che vengono, che noi stiamo cancellando i nostri stessi diritti che abbiamo acquisito con tanta fatica. Cioè Emma Bonino, in un'intervista di un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, ha detto proprio questo, cioè ragazze, fate attenzione a tutti quei diritti che qualcuno ha combattuto perché voi nasceste con questi diritti acquisiti e che state rischiando di perdere, quindi io mi sento di dire che le donne giovani e le persone comunque che possono, no, le persone che possono ancora combattere si debbono unire, cioè secondo me la vera unione che fa la forza è quella che butta fuori questi pazzi furiosi, questi maiali, questi sì dei veramente porci là viscidi, e poi se le stuprano e poi gli dicono non puoi partire adesso. Io non ci scherzerei su queste cose, non sto scherzando, è così. Va bene, io a questo punto lancerei l'ultimo brano. Il gelo. No, ma è così. Cioè, tu ci scherzi, è un po' come quando il prete vieni che ti do l'ostia, insomma, è un po' così, dai, vabbè. Allora, ascoltiamo l'ultimo brano e poi torniamo per i saluti final, per ascoltiamo, final saluti. Cioè, proprio per capire che va tutto bene, è tutto a posto, non succede niente, è un mondo bellissimo. Ascoltiamo i Supergrass con All Right. We'll be right back. Va bene, quindi siamo rientrati e siamo qua per i saluti finali, perché vi dobbiamo ricordare diverse cose che riguardano gli appuntamenti di Italian Podcast Network. Italian Podcast Network, Runtime Radio, Runtime Radio. Innanzitutto, quando torniamo noi con Everything? Allora torniamo. Beh, io direi che possiamo tornare fra... aspetta che non vedo il calendario, si è bloccato il calendario, quindi non torneremo mai più. Va bene, torneremo. Allora, io direi che possiamo tornare il 24 giugno. La Madonna, proprio... troppo, cioè, tardi? Proprio fra un mese. Se vi piace il lunedì, torniamo il lunedì, ma tanto ci stanno certi che ci ascoltano comunque e amici e che ci ascoltano proprio, mai, quindi, vabbè, okay, va bene. Allora, comunque, entro un mese ritorniamo con la prossima puntata. Invece vi ricordo che è andata in linea ed è già scaricabile la puntata speciale Trono di Spade, relativa a Morti di Bestemmie. Morti di Bestemmie che si è presentato appunto a questa puntata di Trono di Spade con l'indicazione 3X01, che significa che con questa puntata abbiamo inaugurato la terza stagione, quindi, e vai! Quindi finalmente torneremo. Torneremo! Vi ricordo anche che ci saranno delle occasioni dove parleremo anche di altre serie TV, ma soprattutto vi ricordo che probabilmente ci saranno anche delle puntate speciali come facevamo d'estate quando c'era il bel tempo, c'erano le partite, che ne so, ci sono i mondiali femminili, non lo so, potremmo seguire l'Italia, attenzione, non lo so, adesso... Ma è non tutto... ci sono le europee? Gli europei? Gli europei no. Ci sono fra il prossimo non anno. Ci sono le Olimpiadi? Niente. C'è cavolo quest'estate. Ci sono i mondiali femminili di calcio? Insomma, io non li sottovaluterei, perché l'Italia... I mondiali quando ci stanno? Fra tre anni. Come fra tre anni? Fra quattro anni. Quindi l'anno scorso hanno fatto i mondiali? Sai, mi stai confondendo. E noi non abbiamo fatto Mondo Ludica? No, non abbiamo fatto Mondo Ludica. Che ci siamo vergognati? No, abbiamo fatto qualcosa, mi sa. Boh, mi ricordo, vabbè. Forse per la finale. Vabbè, non ci confondiamo. Non ci confondiamo. Comunque, diciamo. Erano bellissime le mie telecronache. Fantastiche, infatti, torneremo a farle con il calcio femminile, appunto, che è diverso dal calcio maschile. Che è fatto in maniera che lo possano capire anche le donne, capito? C'è importanza questa cosa. Allora, queste affermazioni classiste a casa mia non devono esistere. Non so, ma purtroppo. Che cos'è il calcio d'angolo? Comunque, Morti di Bestemmie tornerà con alcune puntate interessanti, alcune speciali particolari. Poi faremo delle cose riguardo il calcio e roba del genere. Ricordatevi che il mercoledì c'è anche OGM. E poi la prossima settimana ci sarà anche la seconda parte della puntata speciale Discovery, Star Trek, roba del genere. E poi, insomma, ogni tanto dite anche voi, insomma, suggerite qualche tema, qualche argomento. E l'abbia scritto Barbabietole. Barbabietole, io non l'ho capito. Ah, le barbabietole di zucchero. Ma come, non hai capito? Lobby, giusto, sempre giusto. Sul pezzo. Questo ragazzo proprio ci piace. È talmente sul pezzo che manco io mi ricordo le cose. Quindi scopriremo la produzione di tante nazioni europee e mondiali. Che poi sono sempre quelle, scusa. Barbabietole, io da che mi ricordo io c'erano sempre. No, ma poi dico, le nazioni sono sempre quelle, quindi le abbiamo già scoperte le barbabietole da zucchero, che prende secondo Marco ma Gualdi. Ma che ne sai quello che può sono succedere? Dovunque. Ma no, secondo Marco Gualdi, ma anche il mio testo di geografia diceva sempre barbabietole da zucchero. Tu quando ti interrogava la professoressa di geografia, barbabietole da zucchero e stavi a posto. A priori proprio. A meno che non era proprio un paese freddo. Comunque, vabbè. Fa niente, pure la barbabietole da zucchero tu metticele e parlagli nell'orecchio dove non sente. Va bene, quindi chi è che ha detto ieri sera sta cosa? Il cameriere di sera, sì. Vabbè, un po' meno. Comunque, adesso in chiusura vi ricordiamo, c'è questo racconto di Stefano Paganini riguardo a Zucconi, così concludiamo, e subito dopo ci sarà il brano Verso Oriente di Timoria ed Eugenio Finardi, addirittura insieme, quindi featuring è una cosa assolutamente importante. Noi, come abbiamo detto, ci sentiamo presto, vi ringraziamo, ricordate di andare su www.rantemradio.it dove c'è la campagna Patreon Runtime Anch'io, e quindi contribuite, perché insomma noi non è che ci fa schifo, insomma, se voi contribuite, assolutamente non fa niente. Da me Simone Pizzi è tutto. E da me Michela De Paola è tutto, e vi ringrazio ancora una volta per essere di cuore per essere i nostri ascoltatori fedeli, clienti. Sì, e per invitarci, per farci capire che comunque possiamo tornare e siamo un popolo. Siamo benvenuti nelle vostre orecchie, nelle vostre case, nei vostri letti. No, nei vostri letti non ci vengo. Comunque, se volete vi mando Simone. Io, che non mi chiamano Termo Simone, quindi. Bene, grazie a tutti. Buonanotte. Grazie a tutti, e buonanotte. Grazie di averci ascoltato, come al solito. Vi vogliamo abbastanza bene, ma vogliamo più bene a noi stessi. Ciao. Devo ringraziare veramente Simone Pizzi per l'idea di questa trasmissione. Il fatto che sia mancato Vittorio Zuccone non è soltanto un segno di una mancanza di un giornalista. Viene a mancare anche una voce critica molto importante in questo paese. E almeno per la mia esperienza, per il mio ricordo personale, che è il motivo per cui sto registrando questo segmento della puntata di Simone, è che l'ho conosciuto di persona nel 2010, all'indomani della presentazione qui a Milano presso un negozio Mondadori di L'Aquila e il Pollo Fritto. Per me, come giornalista pubblicista, è uno dei pochi giornalisti italiani veramente interessanti, da un lato sia per la sua capacità critica, dall'altro lato non da poco per la capacità diciamo di senso dell'umorismo, di trovare comunque elementi anche con un certo motto di spirito, a volte anche caustico, che rendevano le notizie sicuramente più interessanti, e anche gli approfondimenti. Durante la presentazione del libro in realtà erano venute fuori alcune cosette. Il libro parla degli Stati Uniti, sostanzialmente lui era sposato ad una donna e agli Stati Uniti. Non ho mai capito, e credo neanche lui avesse ben chiaro, chi dei due fosse la moglie e chi l'amante. Sicuramente aveva un rapporto molto stretto con gli Stati Uniti, che odiava e amava, probabilmente come si odia e si ama una moglie. Era molto legato e ha ottenuto la cittadinanza statunitense, e lui raccontava questa provincia dell'impero. In realtà dalla provincia dell'impero arrivava, venendo dalla provincia modenese, e raccontava questo posto strano da marziani che erano gli Stati Uniti, per uno con radicate convinzioni, diciamo, contro la pena di morte, contro la quale lui si è sempre espresso, e con altre tante convinzioni, prima di tutto sul cibo, sul buon cibo, da buon modenese. Anche suo papà, Guglielmo Guzzucconi, altro giornalista di grande spessore, doveva essere una buona forchetta. Comunque, quando parlava di roba di pappa, era capace di stare delle ore e andare giù anche pesante su argomenti pesanti, salvo poi trovarsi in una Washington in cui tutti mangiavano cose vegane oppure dei sushini molto fighetti. Durante il racconto lui parlava di questi Stati Uniti strani, di un paese di alieni al quale poi alla fin fine abbiamo finito per assomigliare anche noi, perché la cosa che probabilmente non gli sarebbe piaciuta è venuto a mancare ieri, quando in realtà ci siamo persi noi, purtroppo, oltre alla sua persona, ci siamo persi anche il suo commento di queste elezioni politiche. Ecco, è venuto a mancare anche la sua analisi critica della società americana e di come la società europea, ma soprattutto quella italiana, si stia trasformando dalla televisione alla cultura, in particolare alla politica, alla comunicazione della politica, si stia trasformando in quella americana per tutti gli aspetti. Del suo modo di presentare il libro, in realtà venivano fuori anche aspetti legati alle sue partecipazioni televisive e radiofoniche. Lui, come direttore di Capital Radio, era uno che si sporcava le mani, perché poi andava a parlare di calcio, faceva un telegiornale in una radio che trasmetteva sostanzialmente musica per giovani, partecipava anche a altre trasmissioni. Spesso era ospite di Lilli Gruber sulla 7, 8 e mezzo, dove insieme anche ad altri giornalisti come Severnini, come Rampini, tutti i giornalisti di razza e comunque secondo me molto molto bravi, molto preparati, con i quali magari non sempre si può essere d'accordo, ma di cui difficilmente si può negare l'intelligenza, tirava sempre fuori argomentazioni relative agli Stati Uniti che probabilmente non filtravano dai mezzi di comunicazione normali, convenzionali. C'erano poi tutta una serie di leggende americane che lui sfatava. Nel libro, che comunque consiglio perché è veramente gradevole, si legge, e penso che ancora più oggi che è mancato Zuccone, si legge proprio immaginandoci lui che ce lo racconta con la sua voce, con il suo accento e anche con la sua verve, la sua simpatia. E in maniera abbastanza sornione c'erano molti aneddoti. Ce n'era una in particolare in cui lui, in un battibecco televisivo, sempre dalla Gruber, con una donna politico italiana piuttosto focosa, questa qua era saltata fuori dicendo che praticamente lei e il suo partito erano il settimo cavalleggeri della politica italiana e della morale italiana. Zuccone l'aveva giustamente bacchettata facendo notare che comunque Settimo Cavalleggeri era noto più che altro per essere arrivato a Little Bighorn ed essersi fatto massacrare dagli indiani, che peraltro era andato lì per massacrare. Quindi forse non era esattamente il miglior paragone, la miglior metafora di qualcuno che andava a salvare la morale e la cultura di qualcun altro. Zucconi, da questo punto di vista, univa veramente sacro e profano, dove il sacro è un racconto della notizia per chi ha qualche anno in più come me, ad esempio della prima guerra del Golfo come corrispondente di guerra, dove faceva anche delle analisi spesso non molto generose nei confronti degli americani e non a favore di Saddam o comunque della controparte, ma faceva notare come in realtà ci fossero degli aspetti della guerra, comunque di tutta questa coalizione, più legati a interessi economici e petroliferi che rispetto a una vera esigenza di portare libertà. Non so quanti di voi stessero ascoltando allora i reportage e i telegiornali, non erano molte le voci così critiche. Credo che veramente abbiamo perso un grande giornalista, un grande direttore e soprattutto una persona estremamente simpatica e affabile. Grazie di tutto, direttore. Tirar